Beh, da 13 anni Politicamente Scorretto è una serie di incontri a 360 gradi davvero, che vanno dalla discussione alla presentazione di libri alla musica, alla fotografia e così via. Insomma, inizialmente era sul noir, visto come racconto di una realtà che è politicamente scorretta, che è strana, insomma, che di solito si tende ad ignorare. Dopodiché abbiamo allargato la riflessione proprio a questa realtà, quindi parliamo di mafia, criminalità organizzata, ma anche di tutti quei comportamenti che sono brutti, che minano la nostra civiltà e di cui a volte ci dimentichiamo di parlare. Ecco perché siamo così politicamente scorretti. Ha colpito il fatto che lei ha posto molto l'accento sul rapporto tra il passato dell'Italia, quindi quello che è successo 25 anni fa in Sicilia, e quanto questo sia ancora attuale. E qual è il ruolo delle riflessioni che si fanno in Politicamente Scorretto rispetto all'attualità legata al passato? Beh, noi ci troviamo tutti gli anni a fare riflessioni che a volte magari abbiamo anche pianificato mesi prima, no? Argomenti che abbiamo detto: bene, sarebbe bello parlare di quello con quelle persone, e poi ci ritroviamo tutte le volte ad essere di un'attualità spietata, purtroppo, perché le cose nel nostro paese continuano ad accadere, accadono, sono accadute, continuano ad accadere e accadranno anche domani. Non siamo mai, come dire, indietro sui tempi, purtroppo, anche quando parliamo di cose avvenute tanto tempo prima, come, non so, appunto quello che è accaduto in Sicilia nel 92, la storia di Cosa Nostra, poi la storia dell''Ndrangheta, poi andiamo a raccontare cose che hanno radici nel passato, che però ci ritroviamo a vivere quotidianamente, non solo nel sud naturalmente, ma in tutta l'Italia e diciamo anche in tutto il mondo. Siamo occupati anche di criminalità nostre e straniere in tutto il resto del mondo. E allora questo è purtroppo il nostro lavoro. Parliamo di argomenti che leggiamo sui giornali, sui quali c'è bisogno di una riflessione per capire quali sono i meccanismi che hanno portato a queste cose che leggiamo e che non ci piacciono. E molte volte questo significa anche riallacciare i legami con il passato. Quali sono i temi specifici e gli ospiti di questa edizione? Penso soprattutto a Cristina Pinto, a cui lei farà un'intervista. Beh sì, abbiamo tanti temi purtroppo, anche alcuni che teoricamente non dovrebbero entrare dentro le problematiche, dentro le cose, gli argomenti di cui parliamo. Per esempio parleremo di calcio, che invece ci casca purtroppo anche troppo spesso. Parleremo di cibo, e abbiamo parlato tante volte di questi argomenti. Parleremo della Calabria, dell''Ndrangheta, quindi di quello che succede, no, da quelle parti. Torniamo a parlare attraverso la fotografia di quello che è successo nel 92. Ne facciamo talmente tante che quando arrivo a questi punti qua non me li ricordo tutte, naturalmente. Parleremo tanto di libri, parliamo di gioco d'azzardo, che è una cosa importantissima purtroppo, e poi dopo chiederemo conto ad una serie di persone. Una di queste è Cristina Gallo, insomma, è Nikita, così viene più conosciuta, e chiederemo conto a lei di scelte, di dissociazioni, di pentimenti, di tutte queste cose che abbiamo sentito, che vorremmo chiederle. Ovviamente non chiederle basta, vorremmo chiederne conto, faremo delle domande, speriamo abbastanza puntuali, abbastanza precise, per capire sentimenti e meccanismi.